Il punto di Stefano Folli. L'anniversario del governo Monti suggerisce due considerazioni. La prima, quello che questa formula, il cosiddetto esecutivo tecnico, poteva dare lo ha dato. Dopo la legge di stabilità sarà solo un'attesa delle elezioni. Secondo, Monti conferma di essere pronto a continuare l'esperienza, ma è il primo a sapere che dopo il voto ci vorrà una base politica scaturita dalle urne. E allora la domanda è: dove vanno i partiti? In realtà le contraddizioni crescono. Bersani dice che piuttosto di un altro governo Monti sarà meglio, nel caso in cui manchi una maggioranza chiara, tornare a votare. Frase pericolosa detta oggi che il sistema politico appare così profondamente malato. Alfano, che sarebbe invece un naturale sostenitore di Monti, è costretto dalle circostanze tenere insieme un PDL disgregato a dire no al professore. Così tutto si intreccia in modo preoccupante. In fondo ci vorrebbe un partito, una coalizione fortemente favorevole a Monti, un partito che prendesse forma e si presentasse agli elettori in modo chiaro. Ma non c'è.